Rock FM. Rock FM, sono le 7 e 31 minuti primi. If you have a problem, if no one else can help, problemi? You can find them. Maybe you can hire the A-Team. Pane, burro, rock and roll. 335-100-7777. Allora, ringraziamo in assoluto sia Leti che il nostro tassista Tino, che entrambi si sono presentati questa mattina con due vassoi giganti di brioche che potremmo distribuire per tutta Milano per almeno un paio di settimane. Quindi stiamo precisi, insomma. E anche le classiche due bottiglie di chinotto. A questo proposito saluto anche un amico milanese che commenta per quanto riguarda il nostro happening di domenica. Sicuramente sarò ubriaco domenica sera. Mi date un passaggio con il torpedone al ritorno? Ecco, Tino, il nostro tassista, ha detto che farà... vi porta a casa lui con tariffa speciale, posso dirlo? Conferma col pollice alto. State in una botte di ferro. A Pisa c'è il cielo nero più nero, alla ricerca dell'orario esatto per questo lunedì, primo giorno di università. Però è venerdì oggi, ragazzi, e hai ancora tutto il weekend. Facciamo così, vieni stasera allo Sherlock, ci si sfascia e poi lunedì si pensa all'università. Ti sembra una buona idea? We are an American band, Grain Funk Railroad. We're coming to your town. We'll help you party it down. We're in. sta più a cuore al maestro Roberto Fricantoni, oltre al rock and roll? Me lo dica immediatamente. La cornice che ponga in giusto rilievo, nel giusto rilievo, per essere più preciso, lo sforzo che i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici hanno compiuto nello spedirci le cartoline postali. Tante che continuano ad arrivare a Via Locatelli 1. Contro lo strapotere. 124 Milano, degli sms, di internet. Di internet, salviamo la cartolina postale. Partiamo subito da Spazen, su Tirolo, secondo me. Vado a controllare. Dolmisi, dalle parti delle Dolomiti, sicuramente. Dolmiten. Abbiamo un set di uomini tirolesi. 2, 4, 6, 8. Da Castelfürter, Spazen. Hanno qualcosa negli abiti del sardo, però. Sì, e lei si potrebbero dire sardi trapiantati. Sardi tirolesi, una roba in di questo tipo. Tirolo. Cosa dice il messaggio posteriore? E con questo sono già ben due quest'anno. E la firma, chi la va a capire? Loredan Lorena? Lorenzo. Lorena. Ma non so. Insomma, grazie a te che ce l'hai mandata Loretta. Da Firenze. E torniamo invece con due putti. Due putti classici ecco, due classici angeli di Raffaello. Ah, lo sapevo con benissimo. Delle freccettine, una indica A, che starà probabilmente per Ariele, e una indica F, che sta per Frick, molto giusto. Ariele Frick, siamo noi. Teneri. Maestro siamo Frick, in primo piano. Scrivono: come faremo a trasmettere un programma che spacca? Non lo so, discepolo Ariel, ma ci sarà rimasto dell'altro chinotto? Ah, è un... così ha immaginato una conversazione tra noi due. Sì. Che bello. Lui è Tino, tornate presto, che sennò come facciamo ad alzarci al mattino? Tino, siamo tornati. E grazie per i putti. E grazie per il mattino, Tino. Esatto. L'ultima. La rima non c'è sfuggita, Tino. Grazie per il tuo mattino. A vedere quest'oggi arriva da Federico, da Firenze, che ci manda una cartolina con un fumetto. Un disegno illustrato. E dei suonatori che cantano una serenata o una bella su là in cima. Bello, bel disegno, bel tratto, bella illustrazione. Scrive Federico: io andrò all'inferno, questo è certo, ma la cosa che più mi preoccupa è che laggiù l'unica radio che arriverà è quella di Radio Maria, e quello sarà lo screzio eterno. Federico da Firenze. Interessante, belle interessante vacanze ti sei fatto, posizione. Comunque ci tengo a fare sfoggio di cultura. Dica. Anche in questo caso, sì, di Ariele, per dire a Federico di Firenze, sì, che altri grandi uomini come lui hanno pensato alla destinazione ultima, all'inferno e al paradiso. Sì. Sa cosa diceva Mark Twain? Lo dica, la prego. Diceva: sceglierei il paradiso per il clima, ma l'inferno per la frequentazione. Lei ne sa sempre una più del diavolo. In questo caso possiamo ben dirlo. Long Distance Run Around, yes! Ragazzi, saranno le 300 brioche che sono arrivate queste mattine, saranno i 4 kg di chinotto che ci hanno portato, sarà che domenica finalmente presenteremo la patente davvero rocker a Cascina Mollue a Milano, qui negli studi di Rock FM. C'è aria di festa! Allora, proseguo. Mattia, la mia vicina ventenne ha fatto una festa per tutta la notte. Non ho chiuso occhio. Ora la vado a svegliare. Mattia, potevi farti invitare, però, scusa. Saluto anche Eli Rock. Mi fa una domanda che non avrebbe dovuto fare. Caro Ariele, ma domenica ci sarà la possibilità di mangiare qualcosa? Pane, salame, rock and roll? Allora, cara Eli Rock, diciamo cara Eli Rock, sicuramente ci sarà la possibilità di mangiare e vi dirò per la prima volta una cosa che ho voluto tenere nascosto fino a oggi, perché sarebbe successo il pandemonio. Gli organizzatori del concerto degli Schiantos, della festa, sono i ragazzi del birrificio di Lambrate. Scopro da un volantino che la festa è per i 10 anni della birra cruda. Quindi fatevi voi 4 calcoli su cosa potrebbe succedere, anzi, cosa succederà. Va bene, basta, chiudo qui. Quindi non chiedetemi se ci sarà della birra, ecco, diciamocelo così. Il lampione crepuscolare si è spento, è andata, ragazzi. Da adesso fino alle 9 dobbiamo proseguire sulle nostre gambe. Ma ce la faremo, perché abbiamo il rock and roll dalla nostra. I Kinks, Long Tail Sally. Alla gita sociale di questo mese. Il Torpedone, attrezzato di tutti i comfort, vi porterà domenica 30 settembre a Cascina Mollue, Milano, nell'occasione straordinaria della presentazione al pubblico della patente davvero rocker. Ma è per questa ragione che mi state dando sempre più calmanti? Aumentate la dose in vista del 30 settembre. Ricordiamo a chiunque vorrà partecipare la presenza sul palco dell'orchestra dal vivo, gli Schiantos. Ah, mi volete preparare all'evento? Adesso capisco. Roberto Fricantoni dal vivo e la patente davvero rocker, due piccioni con una fava. Non è che la mattina si può avere una pillolina in più, un elettroshock, così se ne avanza uno. Così per stimolarmi un attimo, per avere un po' di grinta, perché questi calmanti hanno un effetto soporifero. are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? So empty that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else and you're always there alone. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do? Beth, what can I do? Subito pelle d'oca, eh? È subito moquette, o come diciamo quando piove, quando è un po' uggioso così, è subito muschio sulla pelle. I Kiss di Beth, pane, burro, rock and roll, ed è subito amore. Io non riesco mai ad ascoltare i Kiss senza pensare al mio mitico cugino Chiaffredo, Dio lo benedica, che magari è anche all'ascolto, che fu colui che fondamentalmente mi fece scoprire il rock and roll, no? Tutti noi abbiamo un cugino, un fratello, un padre, un genitore, insomma, qualcuno che ci ha immesso sulla strada del rock and roll. Ecco, il mio è il classico cugino Chiaffredo che mi faceva ascoltare i Kiss. Guardate un po' voi, per quello che poi sono diventato così, no? Sì. Tanti, tanti messaggi. 335-100-7777. Questa 20ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Ancora 10 minuti della prima parte. Poi inizieremo con il Rocky Horror Picture Show, anche quest'oggi, la seconda tranche. Allora, faccio qualche saluto veloce. Tu continua pure a parlare di tripla quando parli del lotto, però si dice terno. Sì. A me piace dire terzina. Io una volta ho vinto 5.000 euro da Dario da Zena, quello che viene su e ti spulcia e si mangia i pidocchi, che tra i primati è un gesto di affetto. Sì. Siamo in squadra insieme, ragazzi. Questo amico anonimo, che probabilmente è passato qua sotto questa mattina, perché abbiamo la ristrutturazione noi siamo al primo piano Rock FM, sotto è tutto in ristrutturazione. Chiedono cosa stanno facendo lì sotto, tutta roba vostra? Guarda, stiamo pensando di fare un appartamento per Fricantoni, così non deve smetterla di fare avanti e indietro. Proseguo, io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, tutti insieme a Mollue. Ma siete messi male, viva i Van der Graaf Generator. Mannaggia, oh. Vi vogliamo bene, amici, state tranquilli. Ciao grandi, salutatemi Simone, che dalla prossima settimana diventerà un rocker batterista d'eccezione. Siamo all'ascolto, gruppo d'ascolto metalmeccanici che ascoltano Rock FM di nascosto dai capi. Grandi. Gruppo d'ascolto disoccupati. Ieri, poco prima del crepuscolo, il sole ha fatto breccia tra le nubi in quel di Montluè. Long live rock and roll. Quanto è rock fare 34 chilometri per passare a prendere il tuo chitarrista e il tuo batterista bloccati dalla pioggia per andare in sala prove? È molto rock. Ma amici, non c'è storia, voi siete i più rock di tutti. L'ultimo saluto, dai, a Ravenna, così copriamo tutte le frequenze di Rock FM. Lui è Yuri. Davvero cialtrone? Ho comprato la cartolina, il francobollo, ma non l'ho ancora spedita. Sono ancora in tempo? Sì. Yuri, guarda, non c'è un limite di tempo per la cartolina postale. Il nostro obiettivo è salvarla. Spediscila quando vuoi. Ehi, sono le 7:53 minuti primi. Siete in ritardo? Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, lei non mi crederà mai. No, non è possibile. Io la imploro, sono in ginocchio, chiedo il suo perdono, la sua comprensione. Io fatico ad esprimermi, a parlare, perché ho appena subito uno shock violentissimo. Sono vittima di un incidente aereo. Direttore, il mio velivolo è precipitato. Io mi sono salvato miracolosamente. Ho preso l'aereo stamattina per arrivare in tempo in ufficio. Ce l'ho messa tutta, ma l'aereo è precipitato. Io, sa, sangue dappertutto, lamiere contorte. Non sapevo cosa fare. No, non c'erano torte nelle lamiere. Le lamiere erano contorte, mi scusi, non riesco ad esprimermi. Abbia pazienza, mi perdoni, non so neanch'io quello che dico. Insomma, comunque mi sono accorto di non avere più il bagaglio, allora ho dovuto tornare in aeroporto e lì mi è toccato rifare il check-in. Il ritardatario ritardato, non dimenticate! Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM.